Com'è straordinaria la figa, com'è straordinaria la figa, com'è straordinaria la figa, com'è straordinaria la figa. Signor Barisoni, se possibile di sera chiudete un poco prima, grazie. Ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto, che tu sia maledetto, maledetto per quello che hai fatto, schifoso. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Pronto! Parenzo, ma uno che è solo, che magari paga gli alimenti alla moglie, che non ha grosse possibilità di andare a locali e conoscere gente nuova, per accedere al sesso, cosa deve fare? Deve violentare qualcuno? Il sesso è un bene primario! €15.000 Urbato! C'ho le palle piene! Giuseppe, ciao! Io vivo nella civilissima Australia dove purtroppo le prostitute per strada non ci sono. Sono tutte quante rinchiuse in questi bordelli dove tu ti devi programmare la scopata, devi sperare che ci siano le ragazze fighe, oppure ti devi affidare a quei siti che tutti sappiamo che il 99% delle foto sono false. Io invece le prostitute, amici miei, io le voglio per strada, alla luce del sole, perché non so mai quando mi viene la voglia di scoparmi una bella ragazza dell'est a €20. Potrebbe essere dopo il lavoro o mentre ci vado, così, in un noiosissimo pomeriggio. Io le prostitute le voglio per strada, per strada. Puttane russe sono le migliori e trans brasiliani, fidati di un miserabile, fidati. Parenzo, vai a fanculo! Mamma mia, che carica che mi dà! Che eccoci, carica! Che eccoci, carica che mi dà questa sigla, eccoci, caro David! Che grazie, carica! Peraltro per aver ricordato quello scontro, no, iniziale con, con diciamo quello, che però dopo quello che abbiamo sentito, dopo quello scontro, diciamo, è anche la cosa meno forte, no? Sì, meno forse, forte, sì, meno sì, forte. Sì, sì, cioè, sì, diciamo sì, la verità, noi ogni sera, almeno io personalmente, ma di questo ne sono anche fiero, faccio un inno alla prostituzione. Pur essendo uno che praticamente non è mai andato a prostitute. Beh, perché, no, non buttarti così giù. No, non sono mai andato, no, ti giuro. Beh, l'ho raccontato più volte. Sono andato. Sei andato tre volte, un sacco di volte. Tre volte. Direi forse metterei 1-0 anche. No, dopo, no. Non lo dico, lo sai che è così. No, 3-4. Questo però mi fa venire in comunque mente una uno cosa. Schifo, guarda, ma uno cosa schifo, uno schifo? Veramente. Cosa? Cosa uno schifo? Ma l'idea è che sei andato 4 volte a prostitute, che hai pagato, che sei andato. Ma che c'entra? Ma l'ho fatto per sperimentare. diventare, mica perché avevo bisogno di sesso. L'ho fatto perché era divertente. Da solo non sarei mai andato, sempre in compagnia, sempre per divertirmi, ridere. E allora, scherzare. Perché non introduci a casa tua anche così per sperimentare lo schiavismo, ad esempio? Ma perché non lo introduci? Ma che cazzo? No, ma dici, ma in fondo l'ho fatto solo per così per provare, no? Ma in fondo è naturale, certo, sì, ho fatto un po' di schiavismo, ma è solo per provare, è normale. Ma dico, ho commesso un reato. Ma dico, ho commesso un reato. Lo schiavismo, normale. Ah, che cagare. Ma certo. Allora, no, perché è interessante una cosa. Tu mi hai rimproverato nei giorni scorsi, dici, e tu sei a favore delle persone che si armano, e dici armatevi. È vero, lo ammetto, tranquillamente. Sono andato anche oltre la posizione, diciamo, tradizionale di chi vuole più armi in Italia. Molto pericoloso. Sono andato molto oltre pericoloso. Questa cosa, ma ne sono anche fiero e ne sono soprattutto consapevole e non mi nascondo davanti a questa cosa qua. Però, e tu mi dici, no, però tu poi non ti armeresti, non prenderesti mai un'arma. Vero, vero. Questo mi pare fino però, ad oggi. Poi, no, e rimproveri anche tornare altri. Dopo Natale dicendoci, esatto, che ti hanno regalato una pistola. No, no, se mi hanno regalato la pistola non la posso usare, dunque non la potrei nemmeno tenere. Cioè, commetterei comunque un reato se la tenessi in mano. No, il punto non è questo. Tu rimproveri anche a tutti quelli che chiamano e che dicono bisogna sparare, uccidere i ladri. Sì, dice, l'80% a un certo di quelli non è prenderebbe un'arma. Non prenderebbe sì, mai un'arma. L'80% anche di quelli. Anche però lì. Ti dico subito che è una cazzata questo tuo argomento, perché anche Pannella era a favore della legalizzazione della droga, ma non si è mai drogato. Diciamo la verità. Anche Pannella era a favore della legalizzazione della droga e non si è mai drogato. Non è che per essere a favore della legalizzazione della marijuana. Molto, il paragone tuo potrebbe sembrare. No, il paragone mio ti fotte. Potrebbe te lo sembrare in quel posto, interessante. In realtà non lo è, perché come tu ben sai, la droga fa male a te stesso, quindi rovina il tuo corpo ma e la tua vita. C'entra? Ma non è vero. Mentre la pistola alimenta, rovina la vita degli non è vero, altri, perché la droga, oltre che secondo no, me la tua. No, sbagli, perché la droga alimenta anche il mercato nero. Siamo alimenta d'accordo, il però, mercato diciamo, dello spaccio. La differenza tra sparare e drogarsi è che drogarsi è un atto che uno fa sul ma non proprio è vero, corpo, alimenti il mercato su se stesso. Dai, sì, soldi agli spacciatori, che cazzo dici? Però il danno dai primario uno lo reca a se stesso. Con la pistola generalmente la usa non per uccidere se stesso. In alcuni casi, penso ai neonazisti, potrebbe essere un ottimo invito ad armarsi, ottimo, e dici, ad autoeliminarsi. No, ottimo, sì. Ottimo, armarsi per autoeliminarsi, sì, nel caso dei però neonazisti. Però ti dico anche un'altra cosa. L'argomento è definitivo. E anche Pannella era a favore della legalizzazione della droga, ma non si drogava. D'altra non parte, c'entra nulla, scusami, non c'entra d'altra, d'altra parte, però, cosa c'è di peggio, per esempio, di un banchiere come Zonin? Te lo ricordi, il signor Zonin? Com'è? Che qualche giorno banca fa, perché tu parli sempre male degli ascoltatori che intervengono, Mauro, eccetera. Banca Popolare di Vicenza, questo indagato per che la ha avuto la della spudoratezza di andare davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, sì, che sta facendo più danni a Renzi di quanto lui potesse immaginare. No, ma una sta commissione ridicola. No, ma sta facendo proprio più danni a Renzi di quanto lui non potesse immaginare, sì, perché l'ha voluta, certo, alla fine. Dunque, una cosa, sì, una specie, bravo, di karakiri assoluto. Cioè, no? Sì. Allora, Zonin ha detto: ho perso dei soldi anch'io. Cioè, di fronte al fatto che i risparmiatori sono stati fregati, eccetera, eccetera, un sacco di gente che ha perso dei soldi, qui non vogliamo dire come, quando e perché. Signor Zonin ha avuto la faccia tosta di andare là a dire: beh, qualche che soldo. C'entra questo con le armi, però. No, non c'entra niente. Sto dicendo agli ecco, ascoltatori che non c'entra niente con le armi. Ah, ecco. Non no, perché tu pensavi a qualcuno che poteva. Esatto, esatto. Pensavo al peggio. Ma tranquillo, tranquillo, meno male che si sente tranquillo, perché lei sa che in Veneto 120.000 persone non si sentono tanto tranquilli come lei. Purtroppo ho perso anch'io. Purtroppo ho perso dei soldi anch'io, ragazzi. Amici miei. Ehi, amici miei. Ieri sera Boschi contro Travaglio, spettacolare. Allora, la Boschi, come sapete, è accusata di conflitto di interessi. Non stiamo qui ricapitolando come e perché. Secondo alcuni non dovrebbe candidarsi. Oggi il premier Gentiloni ha detto che invece ha chiarito tutto dopo le cose che ha detto Vegas l'altro giorno e sarà candidata nel Partito Democratico. Non stiamo qui a discutere bene, male, giusto. Anzi, se volete potete dire tranquillamente la vostra. Boschi Travaglio, secondo me ha vinto Travaglio al 100%. Perché la Boschi dice: lei mi attacca, dice perché sono donna. Che cazzo c'entra perché è donna? Lo attacca perché secondo lui c'è un conflitto di interessi grosso, certo, come una casa. Sono d'accordo con te. Avrebbe attaccato allo stesso modo un altro che c'ha un conflitto di interessi, secondo lui, no? Che sono minchia d'accordo con te. Ma che è? Maria, come si chiama? Maria Elena, invece Maria Asia Boschi? Maria Asia Boschi si è messa a fare la femminista, la sergento, dai. Ce la possiamo avere con tante persone. Ce l'ha con me, va benissimo. Io sono convinta che se fossi stata un uomo non mi avrebbe riservato lo stesso tipo di trattamento che in questi 4 anni costantemente nei suoi Berlusconi articoli è un uomo. Mi ha ho detto no, le io parlo di me, guardi. De Blanc contro Carabue sulla legittima difesa dalla vostra parte. A quelli che fanno quelle cose, che ti vengono ad assassinare in casa, che ti vengono altro che i forconi, gli spari una pistolettata nelle gambe, così non camminano più, e poi nelle palle, così non trombano. Perciò la vendetta deve essere quella. Non puoi stare a fare l'agnello. Io capisco Carabue, lei, perché è molto più buono, ma io non sono così buona come lei. A questo punto, no. Se uno mi entra in casa o violenta mio, o vuole violentare mio figlio, qualsiasi cosa, gli sparo. Dai, posso parlare? Prego. Allora, noi siamo un paese cattolico. Tu sei cattolica. Tu sei cattolica. Il 50% degli italiani non lo è. E parli tu, io. Sembri un albero di Natale. Che cosa parli tu? Allora, vestiti da presepio, non da albero di Natale. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Siamo più puttaniere perché ci tira di più la minchia. Naturalmente. A Ruciani, l'autotrasportatore di ieri si faceva le hande, non è che arrotondava. Se dà anche una radio di economia, se te ne compri di più tutta insieme il prezzo si abbassa, quindi aveva un risparmio. E poi aveva anche la menata di non dover andare ogni tre giorni del tipo a prendersela, tipo l'offerta al supermercato, 800 rotoli di carta igienica, li compri tutti insieme, le casse d'acqua, e ci va una volta sola invece andarci sempre avanti e indietro. Il supermercato è legale, l'erba un po' meno, quindi se evita di andarci ottimizzi anche. Su, dai Ruciani, sveglia. Sì, però amico mio, non è che stiamo qui a fare, non siamo degli spacciatori né dei consumatori abituali. Io che cazzo ne so di 30 grammi, cioè c'ho una valanga di gente che mi ha mandato dei messaggi: ah, voi non sapete cosa significa 30 grammi. Sì, è vero, non lo so, perché non mi faccio le canne e non so cosa significa avere 30 grammi in mano, a quante canne corrispondono. Questo 30 non grammi, lo so neanche io. Cosa si può fare, cosa non si può fare, se si può spacciare poco o tanto, non lo so, non lo so, perché non passo la giornata a rollare le canne. Amici miei, non passo, per carità, poi potete dire quello che volete, potete lanciarmi le pietre. No, ma infatti anch'io, guarda, io me le facevo rollare, quindi non avevo idea. Tu le facevi rollare? Tu te le facevi rollare? Sì, non sono in grado di rollare bene, quindi all'epoca quando fu. Citazione da Stephen King. Citazione da Stephen King: non importa che sia piccolo o grande, l'ultima goccia finisce sempre nelle mutande. A proposito, no? Dei residui che ogni tanto troviamo nelle nostre mutande, cosa che a Parenzo non accade, pare, cioè non avviene, cioè tu hai sempre le mutande linde lille. Sì, ma ti spiego perché è molto semplice. Quando tu lo fai, quando tu fai la pipì, oltre come dire a fare quello che si chiama la scrollatina, adesso non so come la chiami tu. Vabbè, la scrollatina resta sempre. La carta IG. Ma resta sempre qualcosa. Ma ti pare che una al tempo di andare con la carta igienica a pulirsi l'uccello? Questo si fa nelle condizioni di civiltà basiche. Nelle comunità neonaziste invece, magari poi ci colleghe. Sì, lì rimangono delle gocce enormi, ad esempio. Non si usa. Nelle comunità tribali, nelle comunità involute. Mi dai lo spunto per far sentire una cosa di qualche giorno fa pronunciata dalla signora Martani, la signora l'animalista nonché vegana Martani, la quale sostiene che, è simpatica la Martani, che per avere profumato, per avere l'uccello profumato, cioè per avere il pisellino profumato, evidentemente ha esperienza da questo punto di vista, negli incontri ravvicinati, bisogna mangiare vegano. E vecchia questione, addirittura se mangi vegano hai lo sperma più dolce, ma lo dice tranquillamente così, senza problemi, Mattia, posso assicurare che è così. Possiamo aprire un dibattito, no, ma è interessante questa roba qua. Apriamo un dibattito. Cioè tu vuoi aprire un dibattito sulla Boschi? Si deve candidare o no? No, si deve candidare. È opportuno o meno che si candidi? Questo mi sembra un dibattito legittimo. È opportuno o no che si candidi? Dillo chiaramente. Per me può fare politica tranquillamente fuori dal Parlamento, cioè può continuare tranquillamente, ovviamente, no, come tutti, a fare politica, ma forse perché sarebbe fuori opportuno dal Parlamento? Anche per il suo partito. Perché? Perché non è necessario che tutti siano per forza candidati. Perché c'è stato un conflitto di interessi evidente nella storia di Banca Etruria, secondo te? C'è evidentemente un conflitto di interessi che deve essere ancora chiarito molto meglio. C'è stato, secondo te? Benissimo. No, io sto a quello che ha scritto un grande direttore che è Ferruccio De Bortoli, e quindi quel libro. Tu sei dalla parte me... di De Bortoli, più dalla parte di De Bortoli che della Boschi. Benissimo. Allora, ma ciò non vuol dire che non possa continuare a fare politica, anche avere ruoli apicali all'interno del Partito Democratico. Mi sembra... Ma perché devi averlo in Parlamento? Mi questo sembra non... più interessante la Martani e lo sperma. Andiamo. Sì, va benissimo. Allora, che cosa è stato fatto? Praticamente sono state prese tre coppie, a questi tre uomini è stato fatto mangiare tre diversi tipi di cibi, alcuni molto speziati, altri il pesce e altri il vegano. Insomma, alla fine è stato fatto assaggiare, diciamo, il liquido seminale, sperma, come lo volete chiamare, a queste ragazze, ed è risultato che quello più dolce lo aveva il ragazzo che aveva mangiato vegano, frutta e verdura. Perché appunto sono single, non sono mai riuscita a trovare un uomo vegano, è uno dei motivi per cui appunto sono single, anche per questo motivo. Perché quando, perché avevi, quando avevi utilizzato quella pratica in quelle zone lì e senti quell'odore, ma quell'odore anche se il soggetto in questione ha ribadito più volte di essere vegano, tu ti accorgi lì che invece non è vegano, che invece non è la vero, prova del 9. Quindi basta, vi voglio dire un'altra cosa, il vegano a letto dura molto di più, capito? Contenuto nella carne, uova e latticini, provoca pressione alta e malattie. Una sequela di cazzate senza di ogni ordine e grado, proprio una sequela di cazzate infinite, cioè una roba pazzesca proprio. Durano di più, hanno lo sperma più dolce, una cosa incredibile. Walter da Torino, vai Walter. Buonasera Cruciani, mi sente? Dimmi. Anche Parenzo. Vai. Ma allora, eccoci. Visto che voi non sapete bene delle droghe leggere, magari non avete ben chiaro quanto sì, costano. No, perdonaci, scusa, devo fare mi devo inchinare, devo chiedere perdono a qualcuno, faccio una confessione, non lo so. È un chiarimento, io non sono uno che va a puttare, però sulle droghe leggere me ne intendo abbastanza. Signor Narcos, ci dica, caro Narcos. No, è Narcos adesso, Narcos era la cocaina. Ti fai pure la cocaina ogni tanto? No. No, assolutamente. E no. Che ne so, vai. Che ho fatto largo uso di droghe leggere quando ero più giovane. Fai ancora uso? Ogni tanto fai? No. Non bevo neanche più, diciamo che ho cambiato vita. Si può. Allora, questo discorso. 30 grammi di marijuana o di hashish, di buona qualità, non costano più di 100 euro. Tu vai al mercato, lo compri, compri 100 euro di hashish, tipo il caramello, con 100 euro di asci sono più o meno 25-30 grammi, ce l'hai per tutto il mese. Sì. Non è una grande spesa 100 euro, no? Non è che puoi andare nella piazza ogni tre giorni e dire dammi 10 euro di fumo, dammi 5 euro di fumo. Sì, poi c'è la polizia, il carabiniere, alla fine ti becca e non ti dice neanche che fa qua, hai capito? Sì, no, ma ho capito benissimo. Lo ho prendi capito. Una volta, lo metti da parte e stai. L'importante è che non fai i pezzetti, perché poi i carabinieri non sono stupidi. Importante che non fai? Che non fai i pezzetti, tipo per venderli, capito? Che magari fai 10 vedi, il consiglio è quello di tenerli tutti insieme. Consiglio di tenere il pezzo tutto insieme, te lo lasci nel comodino, te lo fumi un po' tutte ragazzi, le sere. Ragazzi, tutte queste no, ho capito Walter, tutto questo telefonate che riceviamo da persone che senza problemi, Davide, dicono mi compro 30 grammi, mi faccio l'hashish. No, ma per dire, certo, questo che cosa dimostra? Che è tutto fatto alla luce del sole, cioè ragazzi miei, bisogna questa roba qui renderla legale, chiaramente alla luce del sole. Questo Walter dice io mi facevo di erba eccetera, e do pure un consiglio ragazzi, che se comprate 30 grammi che deve, droga che vi deve durare per un mese, non dividetelo, altrimenti la polizia vi incula, questa è la realtà, fermi tutti. Che cosa mio nipote? Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye. Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever. It's the best program ever. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. La Zanzara is the best radio program ever. Bye. Parenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. Piano! Piano! Dove sei? Cruciani, è vero, a 30 euro di fianco dove lavori te, in QT8 ci sono due rumene strafighe, 30 euro c'ha due tette, ci avrà 22 anni, una la conosco anche, solo che sono in strada, è vero, fai l'indagine sociologica, costa poco, c'è un discount, cazzo, porca puttana, ma di fianco dove lavori te non sai un cazzo, Cruciani, nulla sai, niente, studia. Questo è un deficiente totale. Cioè, lo so benissimo che da quelle parti lì vicino alla radio è pieno di prostitute. Che vuoi da me? Che cosa vuole da me questo qua? Cioè, a 30 euro. Dico semplicemente perché se devi andare a puttana e spendere 20 euro sei un poveraccio. Per carità, va bene, va benissimo. Vorrà andare con te, vorrà condividere con te questa insana passione. Carità, forse, insana, no? Passione. Ti ripeto, sono andato pochissime volte. Non mi va di andare per strada, ma non condanno chi rimorchia una per strada. Ma con che faccia guarderai i tuoi parenti a Natale? Ma che c'entro che io? Diranno, ma cosa c'entro io? Mia madre già non mi vuole ripudiare, mia madre, per quello ti che credo, dico. Ma è ovvio, evidente, a Natale, cena di Natale, 40 persone, i bambini, allora? Evviva, siamo tutti riuniti, allora? Tu seduto a capo tavola, a un certo punto gli sguardi appena siete seduti si rivolgono tutti su di te. E allora? Ma è vero, e allora? Giuseppe, è vero? Gli sguardi così, boom. Sai quando ti senti osservato improvvisamente, no? Ma certo. È vero? Boom, tutti che ti guardano, ma è vero? E chi se ne frega, dico con orgoglio, sì, è vero, sì, è vero. Sì, sono andato a puttane, viva il Natale! Pensa quanto pagherei per essere lì quella sera, guarda, quanto pagherei. Allora, mi segnalano, guarda. Sesso in auto con una prostituta a Rimini, sì, maxi multa da 10.000 euro a cliente 32enne italiano. La donna, che meraviglia. No. Maxi multa, bellissimo. La donna ha confermato l'avvenuta contrattazione della prestazione. Per pensa il giovane, come gli è passata la voglia a quello. Pensa come gli è passata e a quello. Sei maledetto, sei. E per il giovane ucraino, era ucraino o italiano? Che cazzo mi segnalano? Cioè, uguale, comunque, vabbè, qualunque cosa. È fosse. Uguale, il giovane è scattata la denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. In nome della legge. Primo denunciato in violazione della nuova ordinanza a Rimini. Rimini? Sì, Rimini. Tra l'altro mi segnalano che a Riccione sono incazzati come bestie. Cioè dicono tutte le prostitute, tutte le zoccole hanno spostato i loro affari, i loro affari a Riccione. Ecco, facessero uguale a Riccione, così magari poi le spostano sulla riviera. E che facciamo? La migrazione? Sì, se tutti i sindaci facessero così, hai debellato il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Questo è semplice. Hai capito? Beh sì, abbiamo capito. Mi segnalano anche che Asia Argento avrebbe detto su Twitter, avrebbe scritto, non ho dato un'occhiata al suo timeline, al suo profilo, a quello che ha scritto sui social, come si dice adesso, quanto odio questo termine, qualcosa contro l'obelisco con la scritta Dux a Roma. Ha detto che pure è la vergogna del nostro paese. La signora Asia Argento. Signora Argento interverrà una deficiente sulla totale, diciamoci la verità. Una deficiente assoluta, per quello che ha scritto. Ma perché? Una deficiente assoluta. Una deficiente assoluta. Poi scusi, non doveva andare via dall'Italia? Sta ancora rompe i coglioni sull'obelisco Dux, eccetera. Vada via dall'Italia, non si occupasse più dell'obelisco con la scritta Dux. Sono cazzi nostri se abbiamo l'obelisco con la scritta Dux, no? Però vorrei leggerti una cosa molto bella che è uscita oggi su un giornale che conosci bene, che si chiama Il Mattino di Padova. Come no? Giornale locale di Padova, ma certamente importante. Ottimo giornale, afferente al gruppo Repubblica. Non so se ancora l'hanno venduto, sì. No? Quello l'hanno tenuto. No, venduto proprio niente. Va bene, allora. Afferente al gruppo mutuo Repubblica. E 7 prestiti, ecco perché mi prostituisco. Sì. In realtà, perché questa ancora si prostituisce. Una impiegata sorpresa nella casa di appuntamenti. Ho acquistato una casa da 500.000 euro nella bassa padovana, ho fatto un mutuo e poi un prestito per sistemarla, poi è arrivata la cassa integrazione, a un certo punto non ce l'ho più fatta a pagare, quindi ho fatto un altro prestito e un altro ancora e un altro ancora, racconta la signora quarantenne. Mi sono ritrovata con un mutuo e 7 prestiti, ecco come mi è venuto in mente di fare la prostituta. Beh, amica mia, però non è che sei stata obbligata a comprarti una casa da 500.000 euro. Appunto, vedi, la cassa integrazione aspetta, ha fatto sì che lei aspetta. Si trovasse in difficoltà. Ogni cioè, mese, però, vedi, ogni mese dovevamo pagare circa, che è schiavitù quella? Non è una schiavitù, aspetta. No, non è una schiavitù, però aspetta. Si è trovata in una condizione di difficoltà, ma è altrimenti non lo avrebbe, non sono, avrebbe scelto un altro ci mestiere. Ci sono una marea no? di ragazze che vanno semplicemente perché si guadagnano tanti soldi. Aspetta, ogni mese dovevamo pagare circa 4.000 euro, non potevo perdere quella casa, Come ha fatto a fare la prostituta, chiede il giornalista. Non ci ho pensato, l'ho fatto e basta. Ho cercato nei siti di appuntamenti gente che affitta le camere e mi sono messa nel giro. Se perdo quella casa la perdono anche i miei figli. Si rende conto lei? Questo è il punto fondamentale. Quando riuscivo a farlo di giorno, durante le pause di lavoro, eccetera, eccetera, mi toglievo quei panni quando tornavo a casa e tornavo a essere una moglie e una madre. ci sono mogli che fanno di peggio. Non provavo sentimenti, mi calavo in una parte, era una recita. Solo una volta mi sono trovata in difficoltà, mi sono quasi innamorata di un cliente. Nei periodi di maggior lavoro vedevo 3 o 4 uomini al giorno. Ragazzi, questa è una quarantenne padovana. Se siete del giro, chiamateci se avete avuto a che fare con questa quarantenne padovana. Bella, dice. Bella, molto bella. Dice, sono molto bella. Arrivavo a guadagnare 10-12 mila euro al mese. Io, guarda, dal 23... Ma che gli vuoi dire a questa, che è schiavizzata? No, ma io ti dico questo, dal 23 dicembre sarò a Padova fino al 30 di dicembre. E indagherò per te, così alla ripresa della zanzara del 2018 forse ti potrò portare degli elementi. Va bene. Si può tornare a Padova da quando ha vinto il centro-sinistra? Sì, Giovanni da Reggio Calabria. Giovanni da Reggio Calabria, aspetta. Ciao, torno a Padova. Dimmi, ciao, dimmi. Bello. Oh, dimmi, mamma, voglio sempre ciao, tutto bello. Dimmi, dimmi, Giovanni, dimmi. Però ti raccomando una cosa. Dimmi, non diventare succubo, sì, succubo di quello che ti sta accanto. No, per carità, assolutamente. Dimmi. No, perché ora è diventato trampiano ora. Coglionazzo qua, no, i grandi no. Consigli del coglionazzo di Reggio Calabria. No, beh, coglionazzo, perché? No, diventato trappiano. Mi pare che abbia sentito, avrei avuto sentore l'altra volta. Ma trappiano, no, hai avuto un sentore sbagliato, perché tu non senti niente, perché sei un po' sciocco, però non importa. No, andiamo avanti. Aspetta, Giovanni, aspetta, non so che cosa, parla bene, non ti capisco. Parla bene, è difficile gli parla bene. Dai, dimmi, dimmi. Perché gli dici sì, parla bene? Ti voglio dire questo. Dimmi. Ti vuoi bene, Giovanni? Il fatto qua di Trump, lui non lo poteva vedere, lo ricordi? Quando ho detto che andrebbero al nuoto i 3 tenori, quello là, il tenore, andrebbero se li avessi chiamato Trump. Ora, mi pare che il tuo vicino là di casa, scomodo, sia con Trump. Ma non è con Trump, ha detto che ha fatto bene. Ma cosa gliene frega lei di Trump, che lei è un fascista, quindi dovrebbe odiare l'America? Che gliene frega lei di Trump? No, io odio l'America, hai ragione. L'aria azzeccata. Odio l'America. Allora? Odio l'America, ma non per niente, l'hai azzeccata. L'hai visto il film tu, Vincitore e Vinti? Certo. Ascolta la ringa di Maximiliano Scelle. Quando dici che ci dobbiamo vergognare noi. Vabbè, ma dimmi che cosa, qual è il punto? Vecchio fascistone di Reggio Calabria questo. Io non la posso vedere l'America, perché la bomba atomica l'hanno mollata loro a Hiroshima e Nagasaki. Certo, hanno per far finire la guerra. Dei campi di concentramento, tutte queste cose qua. E dice Maximiliano Scelle, non lo conoscevano a Hitler quando parlava alla radio, non lo conoscevano attraverso Mein Kampf, non lo conoscevano. L'America che ci fa il processo ora, e poi ha mollato la bomba Nagasaki. Mi ha affaticato, me lo sento affaticato. Io, caro Parenzo, sono coerente. Che sei nazista? No, semplicemente un cretino, non è coerente. Non posso vedere l'America, non posso vedere l'Inghilterra. Ti sbagli, la perfida Albiona, mi hanno bombardato gli inglesi e gli americani. Vabbè, mamma mia, ma che bello quando ti bombardavano gli inglesi, che bello gli inglesi, che bello. Il signor Churchill, col sigaro, che diceva, no, we bombing Giovanni from Reggio Calabria, fumava il sigaro così, beveva il whisky e dalla sua war room di Westminster ti bombardava, e però non ti abbe, che bello Churchill, un gigante Churchill. Vabbè, Giovanni, non ho capito che vuoi, che vuoi dire. Questo ti voglio dire un'altra cosa. Dimmi. Oggi ho ascoltato un giornalista, mi pare, di Repubblica. Allora? Tu Sky. Non sai come parlava di quel poveraccio che ha fatto la strage in Germania. Che l'hanno ucciso i poliziotti qua. Come si chiamava? Rambo, come si chiamava? Ma non lo so, ma non di che stai parlando? Parlava come se fosse un martire. Dice, è venuto qua a trovare la democrazia. E invece l'hanno ucciso. Tutta sta pietà. Poi ti dico un'altra brutta, ma così non voglio parlare troppo. Caro bue là, che viene qua a pontificare, è italiano come italiano, Giovanni, come te, italiano. Lasciami parlare, per favore. Non voglio parlare con te. Senti, vai a parlare a Radio Londra. In Africa. Ma torna negli anni 20. Sono andati torna per negli anni 20. Per sono andati. Fermo. Noi qua non li sopportiamo più. Non è, un'altra cosa, voglio essere sintetico, hanno paura. Di che? Hanno paura ieri sera, come avevano paura. Di chi? Con la Meloni, come avevano paura il coso là di, del vicolo di Santoro, come avevano paura che stava venendo il fascismo. E alle porte, te l'ho detto io. E alle porte, dici. È alle porte il fascismo. Quando è caduto il fascismo. Sono alle porte gli infermieri. Sono diventati ancora più fascisti. Ecco. Fermo lì. Italiani! Italiani! Ehi, Cruciani! Quanti soldi devi avere? Dalle ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! Ma che è successo? Ma perché scusa, sei arrabbiato? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono, cazzo. Oh, basta con sto teron. Allora, se vuoi chiamare il fisso 800 24 00 24. Se invece vuoi mandare un messaggio su WhatsApp 393 71 71 701. Vamona. Ma scusate un attimo, Parenzo prende sempre per il culo quelli che credono negli extraterrestri, in queste minchiate qua. Però ha fatto tagliare una parte del pisello ai suoi figlioli in nome di un personaggio immaginario che ha aiutato gli ebrei a attraversare il mare. Ma vai via, Parenzo. Parenzo, io premetto che non sono né fascista né razzista. Esprimo solo una mia personale opinione e prendila come va presa. Però, secondo me, e non penso di essere l'unico a pensarlo, Israele è uno stato criminale. Franco da Ibiza, andiamo. Beh, avanti qui, ragazzi, di criminale ci sono soltanto le telefonate degli ascoltatori, quelle sono l'unica cosa però, criminale, scusami, che è un'opinione. C'è anche il diritto di dire che lo Stato di Israele è uno Stato criminale. C'è cioè, non è. Il diritto di dire delle falsità, però. Ma va bene, capito, d'accordo, per te sono chiaro, delle falsità, ma, per altre ma persone. Per me, cosa vuol dire uno Stato? Però, uno Stato sì, scusami, l'unico Stato democratico. Sai come del la Medio penso, Oriente. Sai come la penso su Israele. Dunque, non sono attaccabile da questo punto di vista. Però se qualcuno dice no, ma No, voglio dire, ma qualcuno dice che l'Egitto è uno stato criminale, che la Turchia, io non sento dire che gli stati veramente criminali. Va bene, cioè d'accordo, però non stiamo qui criminali a fare la storia, no, del Medio Oriente. Ma diciamo delle cose semplici, cioè ho capito, è però l'unica democrazia del Medio Oriente, sì, dove si vota, sì, ci sono sì, pesi e contrapesi, sì, c'è un'opinione pubblica, sì, che però impallina, poi c'è un blocco compatto quando si guarda quando si tratta di alcune cose. Vabbè, dai. Franco cose, dai Ibiza, si tratta di terrori di combattere il terrorismo. Franco comunque da Ibiza, vai Franco. Eccomi. Dimmi, dai. Questo chiama da Ibiza. Dimmi Franco, dimmi. Benissimo. Niente, ieri volevate, hai chiesto quel poveraccio che ha beccato con 30 grammi di marijuana, sì, il numero di uno spacciatore. Eccomi. Ah, tu sei uno spacciatore di marijuana. Ma non è che lo faccio di mestiere. Io ho un'attività e parallelamente sì, vendo qualcosina. Quanti soldi fai con la marijuana? A Ibiza, mi sembra, no? Sì, a Ibiza. Cioè, tu mi stai dicendo che oltre ad avere un'attività, che ovviamente non ti chiedo qual è, ma se me lo vuoi dire, dimmelo. Bravissimo. Che fai? No. Ma vendo. Vendo non solo marijuana, tutto. Dico, la tua attività principale qual è? Beh, preferisco farmi un po' cazzi miei, se permetti. Va bene, per carità. Non credo. Telefonato, però, non siccome credo ha telefonato. No, però non credo che la Guardia Civile l'ascolta, però sai, ci sono sempre un sacco di italiani che comunque poi tu non eri tu, poi ci sporge la voce. Cioè, tu praticamente, oltre all'attività legale che fai, spacci anche marijuana, solo marijuana, allora, o anche altre droghe? Tieni conto che Ibiza d'estate anche il fruttivendolo vende tutto, perché da giugno a fine settembre arriva tutto il mondo. E la prima cosa che chiedono quando arrivano direttamente all'hotel, o se no chi alla chiede prima attività commerciale in cui, cioè, tutti i turisti. I turisti chiedono tutti la droga? Ovvio. Molti, arrivano molti, quelli che conosci te. Non è che io conosco un sacco di gente che va in Ibiza e non si droga. Non è che sia. Ecco, cioè, però va bene. Di gente che va in Ibiza dice che non si droga, poi si droga. Vabbè, comunque, questa è la tua esperienza. Beh, non occorre andare a Ibiza però per farsi una canna. No, però è vero. Ma Però è vero che quando può essere che in vacanza uno è più tranquillo e quindi senza la pressione di mamma, papà, di non so chi, si faccia una cannetta, va bene. Ma no, che cannetta, lì altro che cannetta. Ma cioè, non lo so. Però voglio dire, tu quanto riesci a quanto riesci a raccogliere da questa attività di spaccio? Da giugno a settembre mediamente un centino al giorno. 100 euro al giorno. Beh, insomma, 100 euro al giorno sono alla fine 10.000, la fai, la 10.000 a stagione. Sì, sì, sì, no, no, infatti. Ma come fai? Ce la vendi per strada, no? Cioè, gente che... No, io sto all'attività e poi la gente entra, beh, lo vedi subito il gruppo. Sì. Quando fai lo scontrino gli dici, ma voi anche... Ah, sì, sì. Poi da e lì via. Prendi il gruppo. Ma tu da dove la compri? Ma io un po' la coltivavo prima, poi dipende. Perché ci sono cose che non si possono coltivare, le pastiglie non si coltivano, per esempio. Anche le pastiglie vendi? Tutto. E cocaina? Tutto. Pure l'ero? No, quella no, quelle sono i gitani al porto. Quelli gitani al porto. Non è una roba da turista, quella è una roba da residenti. Sì, insomma, gli eroinomani sono i residenti. Ma i controlli di polizia come sono là? Cioè, lasciano correre? È un... Non è che lasciano correre, però io faccio robe piccole. Loro cercano di sequestrare chili per avere promozioni, per rivendersele in nero. Io faccio robe piccole, non tengo tu dici niente. La polizia di Ibiza se la rivende in nero quando fai i grossi sequestri. La polizia di Ibiza non viene a rompere coglione a me. Cioè tu dici sullo spaccio, sul piccolo spaccio sono tolleranti perché altrimenti la gente non verrebbe a Ibiza. Non sono tolleranti, è come svuotare il mare con un bicchiere. Sì, e poi perché la gente va a Ibiza anche per quello, tu dici se comincia a colpire quella roba lì non viene più nessuno. Esatto, bravissimo. Loro fanno qualcosa per far vedere che lavorano, ma comunque sanno anche loro che se tu togli droga da Ibiza, togli anche un certo tipo di turismo che è quello che manda avanti l'isola. Va bene Franco, grazie. Aspetta, fammi dire una cosa. Dimmi, che vuoi dire? Sai che c'è un sacco di gente che rompe i coglioni, con la droga si muore, ma sai cosa ti voglio dire io? Dimmi. Ma c'è chi si muore 100 volte di più facendo sport e drogandosi? Se tu ci pensi... Facendo sport, amico mio, no, dai, aspetta, non dire... Aspetta, pensaci un attimo. Quanta gente è morta quest'anno mangiandosi le pastiglie quest'inverno in discoteca? Ma non lo so, non ho un calcolo. Ma che zero? Sì, ma i danni di scusa, però è un paragone ridicolo quello che fai, perché i danni che provocano le pasticche che tu vendi. Per prendere sull'elicottero, rompersi i coglioni. No, è una cazzata, è una cazzata grossa come una casa. La gente muore il servizio è studio aperto. Ah no, ma lui c'aveva la passione per la montagna. Ma sti cazzi la passione per la montagna. Io ho la passione per la droga. Scusa, qual è? No, però Franco, è una minchiata quello che dici. È chiaro che non si muore all'istante per le pasticche di MDM. Non so che cosa vendi tu. Cioè, vendi della roba che provoca danni. Di questo devi essere consapevole. Cioè, tu tutto vendi... provoca danni. Sì, però le pasticche di acidi, questa roba qui, provoca danni anche permanenti a lungo. Cioè, brucia il cervello questa roba qua. Poi, per carità, anche altre cose. Anche altre cose bruciano il cervello, però... Tutti quelli che conosco che ci sono rimasti sotto con le pastiglie, ma anche prima non erano Einstein. Vabbè, che cazzo vuol dire? Dai, ma questo... sì, no, d'accordo, questa è bella questo, come battuta, però... Questa è una battuta sì, molto però... efficace. È vero, cazzo. Sì, però credo che sia anche verosimile, cioè non è solo una battuta, credo che sia verosimile. Sì, però ragazzi, se mi mettete, se il paragone... Con grande disincanto ha detto una cosa verosimile. Come? Tu corri. Sì, io corro, certamente, ma non rischi è che... Rischi molto di più tu ad andare a correre che ti schiaccia un camion mentre attraversi la strada che andare in discoteca mentre una pastiglia. Ma non ci... Ma può darsi... Ma sulla morte ti do ragione. Ma ti do pure ragione sul fatto della morte, ma i danni che provoca quella roba lì nel cervello rispetto ai danni che comunque provoca anche in alcuni casi l'attività fisica sono... Ma guarda quanti vecchi rincoglioniti ci sono in giro che non hanno mai mangiato una pastiglia, pensaci. Beh, ciao. Ciao Franco, così è vero. Ciao. Torniamo sui fascisti, anzi sui nazisti, caro David. Sui nazisti, sai che se non sentiamo un nazista, un fascista al giorno non siamo contenti qui, eh? Tu non sei contento, io. Fra qualche secondo chiameremo un signore che si chiama Limido. Limido. Capo di un gruppo neonazista a Varese. La Zanzara. C'è la musica giusta per chiamarlo. Alessandro Limido, capo di un gruppo che si chiama Dora, 12 raggi, apertamente nazista, fascista, lo ha detto. Addirittura dice: vado in galera, non me ne frega niente di andare in galera. Bello. Magari ci fosse possibile ricostituire il partito fascista. No, magari andasse in galera. Chiamiamo. Pronto. Limido. Con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Cruciani. Sì, buonasera. Come stai? Bene, bene, sto bene, Cruciani. Te la cavi? Sì, me la cavo, sono libero. Ti stanno per arrestare? Ma non lo so, più o meno. Ma io pare, a quanto pare. Ho letto da qualche parte che non te ne frega niente di andare in carcere. No, non mi interessa. Cioè, non temi il carcere? Non temo il carcere. Sai che per me c'è libertà di parola, come dire, sì, libertà di parola. Sei uno dei pochi che lo dice, sì. C'è libertà di parola, poi ovviamente dipende da quello che uno dice, è certo, ovvio, no? Cioè, io, per me c'è anche libertà di dire sono nazista. Tu però vai un po' oltre perché dici non solo sono nazista, e l'hai già detto, no? Sì. Ma che significa, essere nazista per te? È una serie di cose, un insieme di cose, un modo di vivere. Cioè, un modo di vivere. Cioè, secondo te il nazismo ha fatto cose buone? Sì, il nazismo ha fatto esclusivamente cose buone. Io non ho capito. Anche i 6 milioni di morti dell'Olocausto sono una cosa buona? Ma questo lo dici tu. In che senso lo dico io? Lo dicono i libri di storia, testimonianze e tutto, che ci sono stati 6 milioni. Cioè, sì, va bene. O no? O neghi? Non nego. A parte che mi stai spingendo a commettere un crimine. Perché? Perché l'istigazione è di per sé un crimine. Tu mi vuoi far parlare. Ma l'istigazione a che cosa? Scusami, l'istigazione a che? Al negazionismo. Tu mi stai facendo, mi spingi a esporre delle mie idee che non posso. Di cui cioè, non però posso puoi dire di essere nazista, ma non puoi dire di. A parte che io sono un nazionalsocialista. Vabbè, che è uguale, insomma. Sei nazionalsocialista, hai detto che il nazismo ha fatto tante cose buone, più di questo che bisogna dire. Ho detto che il nazionalsocialismo ha fatto solo cose buone. Ha fatto solo cose buone. Anche gli ebrei, allora? Anche bruciare gli ebrei? Ma non posso parlare di questo argomento, è vietato. Mi stai spingendo a commettere d'accordo un crimine, Cruciani. Sull'Olocausto non puoi parlare. Io, Cruciani, è la verità. Ma dai, esiste l'Olocausto? No? È esistito per te o no? Non posso parlarne. Non puoi parlare. Possiamo, no, ma neanche tu puoi. Ma io no, perché io penso però che ci sono stati 6 milioni di morti, amico mio. Che ti devo. Io penso che ci sono stati 6 milioni di morti, che l'Olocausto sia stata una cosa terribile e unica nel mondo. E penso che chi lo nega è un cretino. Scusami se te lo dico. Sì, no, ma non ti preoccupare. Poi per me hai il diritto di dirlo, è diversa la cosa. Io non ti metterei mai in galera né ti processerei per averlo detto. È punito il fatto di parlarne bene ed è punito il fatto di negarlo in questo momento. Io dico, non mi interessa di finire in galera per quello di cui sono accusato, cioè per la tentata ricostituzione del partito fascista, che è una bugia enorme. Tu dici di essere fascista però? Sì, ma cosa c'entra? Ma da qui a dirlo? No, certo, tu dici che non stai tentando di rifare il partito fascista. No, non è che lo dico, è la verità, è come ma faccio, quanti siete? È con quali capacità. Quanti siete in questa comunità? Una trentina, 40, 50. Non ho le capacità, ma non c'ho neanche l'intenzione. Come faccio? Però magari, no? Però magari fosse possibile. Questo l'ho già detto, Cruciani. Magari, perché tu hai il piacere di chiamarti, non lo so, Nicole Kidman. Beh, che so, vuol dire sì, però non è la stessa cosa chiamarsi Nicole. Secondo me non hai speranze. Cioè, secondo te chiamarsi Nicole Kidman può essere paragonato a rifare il partito fascista? Cioè. Ma chi è paragonato? Sto dicendo che un'intenzione è una cosa. Se invece mi si accusa di qualcosa. Ho capito perfettamente. Però capito? Scusa, già la tua, il nome della tua comunità, 12 raggi, si ispira al signor Himmler. Cioè, no. Come no? È il simbolo del castello dove si riunivano le SS. Dai, su. Questo è vero, ma è vero, amico mio. Più antico. Se dovessi scegliere tra qualcuno per guidare l'Italia, tra Hitler e Mussolini, chi sceglieresti? Probabilmente sceglierei Mussolini perché è un italiano. Però anche Hitler, insomma, no? Anche Hitler. Cioè, un colpetto, un po' di Hitler ci vorrebbe in Italia, o no? Un po' di Hitler ci vorrebbe in Italia, ma perché invece quello che abbiamo adesso va bene, meglio? Beh, oddio, adesso, cioè, tra Hitler e Gentiloni, io preferisco Gentiloni, scusami tanto se lo dico. No, ma ti scuso, non ti preoccupare. Scusa, tu invece sceglieresti Hitler? Ma questo ci ha detto ai 420. Ai 420 voi sceglieresti Hitler? Certo, per carità. Ha finito sto stronzo? Alla parente. Ha finito sto stronzo? Sì, di Parenzo, finito sto stronzo. Finito. Vi volete venire a prendere allora? Volete venire a prendermi? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Stai no, secondo me l'unico che si deve preoccupare sei tu e sì. i 12 minchioni che si vestono da nipotini di Hitler. Ma mi avete chiamato per offendermi? Diciamo vabbè, che l'offesa rispetto ai nazisti non esiste offesa. Parenzo, ma che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu per offendermi in radio? Per i nazisti, no, io non ho chiamato nessuno, Cruciani che ha voluto telefonarle, quindi a me fa vomitare, quindi io spero che lei venga arrestato al più presto. Perché mi parla? Perché mi per parla? Dirle che è uno stronzo. Che, ma va che, bene, che, va bene. Però da un certo punto di che vista. Uno che ancora oggi si ispira a Himmler, sì, va bene, ho capito, oltre ho capito, ad aver bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio, che è la cosa forse più importante e immediata da fare per la sua salute e per quelli che le stanno intorno, le e anche muore, quella di chiedere l'immediato intervento della procura e della polizia. Sì, anzi, ma peccato però che i processi si fanno in tribunale. Quello che pensa lei, parenti, però scusami, no, limito, io gliene diamo uno in più. No, però io limito, voglio da un certo punto in meno in giro è sempre un vantaggio. Da un certo punto di vista, da un certo punto di vista, Limido è più coerente di tanti altri che abbiamo intervistato, David. Perché capite, ti fa no, ti ringrazio, non mi devi ringraziare. Ti fa orrore, apparenzo fa orrore questa cosa qua, ovviamente. Ma non c'è nessuno volontà di proclamarsi nazista. Tu dici di essere nazista, nazionalsocialista. E questo non si può. Però attaccarsi a queste cose, diciamo, come dire, da piccolo avvocatuccio, tu che sei un idealista che vuoi il nazismo, mi sembra una roba anche ridicola. Vada in galera per questo, infatti, sarebbe ottimo. Cioè, il fatto che tu dici non voglio parlare dell'olocausto perché ho paura di finire, perché ho paura di essere condannato per questo negazionismo dell'olocausto, no, fa un po' ridere. Attenzione, non è nelle nostre attività fare negazionismo. Ma scusa, amico mio, ma che cazzo c'è? Dici che ti piace quello che ha fatto il nazismo? Non faccio negazionismo. Ma ho capito, ma è una paraculata, perché se tu dici mi piace il nazismo, nel nazismo c'è l'olocausto, è una delle cose principali. No, non è una delle cose principali. Ah, non è una delle cose principali. Nel Mein Kampf non c'è l'olocausto, nel Mein Kampf non c'è l'olocausto. Ma comunque, per te il Mein Kampf è una guida? Sì, è un grande libro. Io spero che lei avrà tanto tempo in carcere per leggersi tutto il Mein Kampf anche in tedesco. Ma perché lo vuoi in galera? Perché lo vuoi in galera? Perché guarda, la libertà, tu confondi, Cruciale, la libertà di opinione e di parola con l'apologia di dottrine violente. Cioè la parola violenta cosa è di per sì, sé però, un reato. Cosa? Il minacciare di uccidere qualcuno, come è la dottrina nazista, che è una dottrina omicida e assassina, no, è di tu, per Parenzo. Sé una dottrina violenta. No, e questo Parenzo, è il punto. Questo lo dici tu. No, questo adesso io con lei tu. Non voglio neanche discutere perché non mi interessa. Allora non mi però, scusi, Limido, che cosa ha fatto di buono il nazismo? Cosa ha fatto di buono il nazismo? Scusami. No, ma si spara come Hitler. Spara un bel colpo in testa, dai, bellissimo. Dimmi due cose che ha fatto Hitler buone, due cose. No, non posso. Sono infinite. Pensa ai nipotini, di Hitler. Amato? Il tuo popolo. Tu ti ispiri ai discorsi di Hitler? Sei affascinato dai discorsi di Hitler? Sì, sono molto affascinato dai discorsi di Hitler, di Mussolini, di Ahmadinejad, di molte altre persone. Ahmadinejad, perché? Perché parliamo sempre di Hitler e di Mussolini? Ma è quello che sì, giusto, citiamo anche gli altri dittatori, ha ragione. Sono affascinato dai discorsi di milioni di altre persone. No, ma ha ragione, citiamo anche altri dittatori, è evidente, mi sembra normale, certo. Tu, per esempio, non sposeresti mai una nera? No. Perché? Ma nessuno se lo sposerebbe, non che non è che sono inferiori anche in persa da fare. Decine e decine di ragazze hanno chiesto di sposarmi, Parenzo. Sei amato. Ma tu hai tatuaggi? Hai dei tatuaggi addosso? Sì, che sono c'hai? Pieno. Che hai? Non so. Svastiche ne hai? Svastiche tre. Tre svastiche, bene. Sì. Anche una sull'uccello, immagino, che è il posto giusto dove metterla. No, purtroppo non ci stava lì. Dove ce l'hai le svastiche, se te lo posso chiedere? Sì, che certo che puoi, non lo so, una sulla mano, una sul gomito, una sul braccio. Mano, gomito e braccio. Vuoi sapere il mio punto di vista sulle lobby ebraiche? No, gli ebrei governano il mondo? Sì, ma saputo da tempo. Però se governiamo il mondo, perché sto stronzo è ancora libero? Piccola domanda. Troia, veramente. Incredibile, non so rispondere, incredibile, vero? Cioè, perché vabbè, questo stronzo e gli altri camerati che si ispirano alla Dore della minchia è ancora libero? Governiamo troppo poco, evidentemente, ancora. Ma perché non siamo un problema per voi, dai. No, ma siete un problema mentale, per il sistema sanitario nazionale siete un problema, vabbè. Per la sanità. Ciao, Emilio, buona la galera, mi raccomando, in galera, quando vai in galera, quando vai, ti vengo a trovare in galera, ti vengo a trovare. Ciao. Vaffanculo. Pronto, prima si parlava di Mussolini. Dai, andiamo, papà. Pronto. prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo da qua. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo da qua. Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga, caro, venga. La porta al suo reparto. No, venga, no, venga. Veramente. Venga, caro, venga. Venga. Adesso venga in camera, ecco. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Via! La zanzara. All right. Ciao Cruciani, sono in auto con mia mamma, stimato medico, di mezza età, che vuole dirti una cosa molto importante. Viva Cruciani! Arenzo, quando parli della tua igiene intima, mi fai arrapare. Mamma mia, molto bene, molto bene, molto bene questi messaggi sexy per Parenzo. Ogni tanto cadono al momento giusto, cadono al momento giusto. È abbastanza comune, non è una sorpresa. È una cosa non è che una sorpresa, non è una spesso. Sorpresa. No, assolutamente. Allora, godo di molte attenzioni, da parte di molti favori. Godo di molte attenzioni da di parte. Molte attenzioni, di attenzioni, attestati di stima. Sto parlando di un'altra cosa. Donne che ti corteggiano. Non sto parlando di attestati di stima. Godo in generale di attenzioni, di stima, di appunto anche di gente che mi vede per strada, mi abbraccia, grazie per quello che fai, grazie per le tue battaglie. Ma che c'entra? Stiamo parlando di donne che ti vogliono chiamare, amico mio. Cioè... Ma adesso io non sarei così immediato. Perché sei diventato una camusso così. Qualsiasi? Non una ciuna della CISL come quella di ieri? Dai, immediato. Su. David, ma non ti sei mai chiesto perché le iniziali del tuo nome sono come quelle di Double Penetration? Allora, la mamma di solito ha torto, la mamma come la fidanzata, come qualsiasi altra persona che mette a posto casa, rifare il letto ogni mattina può essere una cattiva idea. Perché fa prosperare l'acaro della polvere. Gli acari della polvere sono degli aracnidi microscopici, stessa classe dei ragni che vivono nei nostri letti. Ogni letto ospita circa un milione e mezzo di questi piccoli animali. Essi sono tra i maggiori responsabili delle reazioni allergiche in relazione con asma e problemi respiratori. Ripeto, rifare il letto ogni mattina può essere drammatico. Non è necessariamente una cosa positiva. Crea l'ambiente ideale per far prosperare gli acari della polvere. Non rifare il letto espone gli acari all'aria, alla luce, causandone la disidratazione e la morte. Cioè, se non pulite il letto, se non cambiate le lenzuola, quegli acari crepano. Allora, devo dirvi la verità, caro David, a me non me ne frega un cazzo di tutte queste cose. Io non lo faccio semplicemente per noia, perché mi piace anche sentire un po' di olezzo di vita, non mi piace sentire quell'odore pulito delle lenzuola. Le lenzuola pulite mi fanno anche schifo, perché sono anche fredde di solito, sono molto fredde. Le lenzuola, quelle usate, hanno quel calore della sporcizia, diciamo della vita, hanno quel calore della vita che è assolutamente positivo. Tu senti un calore quando entri, che sia un calore di un po' di sporcizia. Ma non è uno schifo, non è uno schifo. Antonio da Roma, Antonio, vai, dimmi. Intanto a Italy i Notav sono andati a rompere i coglioni, un gruppo di Notav. Io voglio vedere adesso se ci sarà la stessa reazione rispetto a quello che è successo a Como. Questi cazzo di Notav sono andati a rompere i coglioni, per carità, possono fare tutte le manifestazioni malissimo che vogliono, a Italy, a Milano, dal signor Farinetti, perché lo accusano di schiavizzare le persone, cosa ridicola naturalmente. Ma per carità, possono anche essere convinti che quello schiavizza i suoi operai, non è quello il problema. Solo che hanno fatto casino, hanno fatto irruzione, eccetera. È meglio questo o quei coglioni? Coglioni di fascisti di Como. Qual è? Cioè, no, ma non c'è meglio, dai. Peggio, mi fanno schifo tutti. Vediamo se ci sarà la stessa indignazione. Questi sono fascisti perché impediscono alla gente di entrambi lavorare. Entrambi. Ma no, quelli sono fascisti così, il folklore, dai. chi c'è qua dietro fra poco entrerà, fra qualche minuto lo facciamo bollire un po', un nostro amico, caro Davide, ce lo cuciniamo molto bene, uno che recentemente si è messo in testa di fare il regista, non so perché, insomma, tutte le cose che fa si è messo in testa anche di fare il regista, vabbè, comunque. Ottimo, è un toscanaccio vecchio porco, vero? Vabbè, Antonio dal vecchio porco, perché vecchio porco è uno normale che gli piace la vita come tutti noi, insomma, vecchio porco, perché vecchio? Vecchio, ma perché porco, vecchio? Che vecchio c'entra vecchio? Porco, ma vecchio stai paragonando tipo a Weinstein? Non è vecchio, peraltro, scusi, non è, no, assolutamente, ma che va, a lui Antonio da Roma, dietro. Io so che a lui gliela tirano dietro proprio. Se devi sempre parlare di sesso, sempre delle stesse cose devi parlare, cioè se proprio devi sempre parlare delle stesse cose. Io? Se tu vuoi sempre parlare di, sei sempre tu ma che io, inizi poi alla fine, che istighi. Tutt'altro, ma Antonio da Roma, dai Antonio, sentiamo questo che ha da dire, dai Antonio. Buonasera, perché non parliamo un po' della web tax? Buonasera Parenzo. Dimmi. No, io volevo dire due cose. Una, confermare il fatto della ragazza. Cosa? È vero che il fatto della ragazza vegana, che quando si mangia o la frutta o la verdura, lo sperma è decisamente più dolce. Sì, però amico mio, adesso va bene tutto, va bene tutto, però mi pare una cazzata, cioè non è che se tu mangi, è una vecchia tradizione dei film porno, per esempio, dicono che se tu mangi molta ananas, è verissimo, si sente l'ananas, il sapore dell'arancio, si sente il sapore della frutta, addolcisce, diciamo, lo sperma. No, si sente decisamente il sapore, anche perché adesso ci diranno, state parlando di eiaculazione, di sperma, no, non siamo stati noi, è un'altra roba, è venuta fuori da un altro argomento. La signora Martani è andata in una radio a parlare e ha parlato del sesso orale, dello sperma dei vegani. Ma noi che ci frega? No, ma è importante, questa è una questione fondamentale. Siccome i vegani vanno aumentando, le donne devono essere messe a conoscenza, cioè ci sono vari incroci, no? Un vegano e una non vegana, una vegana e un non vegano, cioè bisogna sapere anche i liquidi, mamma che sapore mia, hanno, come mia, sono l'influenza che c'è dell'alimentazione su questa cosa qua, mi pare un argomento fondamentale. Volevo dire anche un'altra cosa. Ma tu che cosa vuoi dire fondamentalmente? Una tecnica per al popolo della zanzara, una tecnica, che per tecnica per fare che? Per assaggiare bene lo sperma, sia la donna che l'uomo. No, però scusami, perché la tecnica per perché la tecnica? Non ho capito, perché tu assaggi ma sperma da uomo. Ma che bisogno c'è? Ma perché tu assaggi perché con il rapporto? Sì, sì, è fantastico. Ma chi, quello della donna però? No, sì, il mio che il suo. Sì. Senta, ma lei vada a fare queste sporconerie a casa sua, no, non ho capito. Però voglio andare fino in fondo. Che vuol dire? Spiegami. Allora, bene, la tecnica è questa. Qual è la tecnica? Guarda che ti blocco subito se dici delle cose assurde. Ma ha già detto, ma più di così, allora, cosa deve dire? Il rapporto sessuale, sì, penetrazione, ok? Dopo la penetrazione c'è l'erezione. Vabbè, no, veramente è il contrario. No, scusa. Aspetta, mi pare che le manchi anche c'è un passaggio che manca. Ma no, ma stai dicendo una cazzata già. Prima c'è l'erezione. No, aspetta, ti dico un'altra cosa. La lingua a tubicino. La lingua a tubicino. No, ma secondo me questo qui non ha mai praticato. Però scusami, sua, Antonio, dici delle cose scombinate. Innanzitutto hai messo prima il rapporto e poi l'erezione, dunque sono due cose diverse. Però adesso non andrei dettaglio, perché non è niente interessante da raccontare. No, anche perché tutti noi, bene o male, chi più che vuole, meno, mi chiama il signor Barisoni che vuole intervenire su questa discussione aulica. Non credo. Fabio proprio da Roma, dai Fabio, dimmi. Anzi, Marco da Milano, finalmente il direttore dell'Espresso. No, non è lui, non credo. Buonasera direttore, grazie per essere intervenuto. Dica. Dimmi. Direttore. Buonasera ragazzi. Dimmi. Buonasera direttore. Dimmi. Dica. Sto parlando io. Con cosa apri domenica? Sta parlando lei. No, vorrei parlarvi ragazzi delle escort, perché le conosco parecchie centinaia. Sì, sì, non è Marco da Milano. Aspetta, lo fai parlare un attimo? Lei che mestiere fa? No, volevo semplicemente dire che non è il direttore. No, io faccio tutto un altro mestiere, ma per passione sono un fotografo. Sì, allora? Fotografo. Dunque? Ne fotografo centinaia. Di che? Di cosa? Di queste ragazze. Di chi? Di escort? Di escort, chi? Escort, possono essere escort, top, stradali, dipende. Perché poi perché un po' fotografi l'escort? Perché mi piace fotografare in generale, poi mi sono specializzato, ho cominciato a fare delle belle foto, mi sono passate la voce, ho fatto un po' di mailing, qualche messaggino e si sono fotografate. Cioè tu me. ti sei specializzato nella fotografia delle escort, queste qua che ci fanno? No, con le sono fotografie normali, come puoi fare una modella, ma solamente devi dare. Ma queste qua poi le utilizzano per i loro siti, per internet, per come le utilizzano? Sì, le utilizzano per internet o le inviano agenzie all'estero. Molto bene, dunque ci hai chiamato per dire cosa? Vi ho chiamato per dire che Parenzo dice le stronzate quando dice che sono sfruttate. Quando dice che sono? sfruttate. Ah, sfruttate. Vabbè, amico mio, però tu conosci parenti, tu... guarda, in che senso? Che i parenti approfittano della loro ricchezza, diciamo. Sono sfruttate dai parenti, sono sfruttate magari da questi siti che sono veramente esosi, carissimi. Magari da tutta la gente che ci gira intorno, ma lo sfruttamento della prostituzione, come lo intendete voi, non esiste. Sì, però tu conosci una parte di, come dire, di prostituzione, quella su internet, quella più nobile. No, conosco anche le stradali, ma perché vanno anche in strada? Guarda che se trovano un buon benzinaio, cioè un buon benzinaio fanno 1.500 euro al giorno. 2000. Se trovano un benzinaio, cioè se trovano... Sì, perché stanno sotto la tettoia che stanno protetti. Ah, benzinaio proprio in senso fisico, intendi? Cioè, proprio in senso... E poi senti, stare per strada è meglio, mi dicono le ragazze, perché quando sei in casa tu bussa uno, gli altri ci devi stare. Quando sei in strada invece lo vedi al finestrino, non ti piace, gli dici di andare. Sì, questo è vero. E anche poi se... fai più soldi. Per strada fai più soldi. E certo, in strada fai più soldi. Il fotografo dell'escort, questa è l'ultima che è arrivata qui. Ciao amico mio, sì, ciao. E un'altra cosa volevo aggiungere qualcosa che riguarda, perché poi sai, le ragazze parlano quando vengono da me, allora? Che non sono un cliente e si chiacchiera come lavoro. Che dicono? Dicono sempre che c'è crisi, eccetera. Pappa non ne hanno, nessuna pappa. E poi parlano anche quelle che vengono, per esempio, quelle che vengono dall'estero, che noi crediamo che siano ragazze... ingannate, vieni in pizzeria, ma sono tutte balle, fanno già le prostitute là. Ci sono migliaia e migliaia di prostitute là. Cosa succede? Che il trafficante, tra virgolette, va e dice: ma scusa, tu quanto guadagni qua al giorno? Guadagni $50 per farti sbattere da dei pastori pieni di malattie, ma vieni in Italia che ne guadagni 500, 1000, 1500 euro e mi dai 50.000 euro. Ma loro 50.000 euro li guadagnano in 2 mesi. Sono già prostitute là. Nessuno sarebbe così deficiente da andare a prendere una ragazzina che non ha mai fatto la prostituta, perché là ci sono decine di migliaia di prostitute già là. È la realtà, è il mondo, è l'area inutile che questi qua rompono i coglioni. Questo fenomeno. Ma rompono i coglioni tutta. Io non capisco come fa ancora la gente a parlare di cose che non conosce. Ciao amico mio, ciao. Allora, caro David, ieri è successa una cosa incredibile. Verso la fine della trasmissione Piazza Pulita c'è stato uno scontro tra il succitato signor Barisoni, vice direttore di questa radio, e Zamparini, e il presidente del Palermo Zamparini. Bravissimo Barisoni, che snocciolava dati, numeri, non leccare il culo come al solito. Ho visto Renzi, ma non ho visto che ha fatto un record. No, ma ho visto che ha fatto un record. Ma chi se ne frega, Pulita, Zamparini veramente contro Barisoni, risentiamo tutto. Noi non lecchiamo il culo al nostro. No, però mi sembra. Però il nostro, quando Barisoni fa una vediamo com'è andata, vediamo, sentiamo com'è. Sembra andata. Abbastanza buono. A parte il fatto che quando le sento dire che questo paese fa schifo e bisognerebbe guardare all'estero, le ricordo che all'estero chi ha un debito del genere non va in TV ospite, ma rischia di finire. Non ha uno Stato, non ha, bugiardo, non ha uno Stato come quello italiano. Allora, se lei è un giornale serio, venga nella mia azienda e veda cosa mi ha fatto l'Agenzia delle Entrate, bugiardo e servo. No, lei sono le 24 ore, ha già scritto delle puttanate su di me, venga a vedere i miei bilanci. Zamparini, l'Agenzia delle Entrate, se con la quale cavolate mi sta vessando. Guardi che per sua confessione lei dice che... Io non ho mai evaso un euro, di dire così di me. Allora, mi scusi, l'Agenzia delle Entrate le contesta. Mi ha fatto delle porcherie. Delle porcherie, ma sa perché? Perché ho fondato il movimento per la gente e li denunciavo, e lei invece è un servo di questo. No, non offenda Zamparini. Non lo offende quando dice che io in Italia vengo in televisione e non dovrei venire. Però, mi scusi. Le banche mi fanno questo. Vergognatevi, Zamparini. Zamparini. Allora, io ho creato 10.000 posti di lavoro. Sai che cazzo ha fatto? Va bene. Ma e c'è Barisoni? La zanzara. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Un padre può anche sperare che sua figlia non faccia la prostituta, ma un padre può anche sperare che sua figlia non pulisca i cessi della Pricewaterhouse. Ciononostante, ritengo giusto che ci sia qualcuno che volontariamente, per lavoro, pulisca le strisciate di merda che lascia Cruciani nella Pricewaterhouse, così come ritengo giusto che qualcuno, per lavorare, decida di fare la puttana. Sua scelta. Libertà, ragazzi. Libertà. La Zanzara. Giuseppe, parlando del pelo, ha ragione l'ascoltatore che dice che è la cosa migliore da 10 anni. Io ho rivisto dopo 5 anni una ragazza che mi facevo, che aveva una bella strisciolina folta di pelo. Era tutta rasata. Lo so. E ho detto, ma che schifo. Sì. Oh sì, vengo, sì, sì, vengo, sì, vengo, vengo, mamma, un attimo, sono al telefono con la Zanzara. Un vero gentleman ascolta la Zanzara. Vero, tutto vero, tutto vero. Caro Parenzo, un altro aforisma, come si dice, di stasera, dopo quello che ho citato, di Stephen King, è di Marlene Dietrich. Una nazione senza bordelli è come una casa senza bagni. Mi sembra assolutamente appropriato a questa discussione. Beh, per te il problema non c'è, perché tu il bagno non te lo fai. Quindi questo è anche dire, vero, per però. Te è il bagno, per bagno, voglio dire una cosa, per me il bagno è veramente perché una cosa... Lo... Bravo, no, voglio dire, ma è una cosa inutile certo, in una casa. Sì, no, ma io entro certo. dentro il bagno e mi fa orrore quella roba lì. Devi sapere che io ho la doccia rotta, la doccia, le vetrate della doccia rotta, sì, lo so, sono stato da a casa anni tua. E non le aggiusto, sì, perché mi so, fa orrore so. Quel posto, il bagno con lo rumore, so, è un posto c'è che un fa rumore schifo, continuo sono... del cielo. No, perché fa schifo, se non esageriamo, viene un posto una pulita. Che fa schifo, è un posto no, ma ti fa posso schifo. Dire che è un luogo che per me non dovrebbe esistere in una casa, ci dovrebbe essere un buco per cagare, una doccia a parte e basta. Sì, ma, nel... ma perché certo, uno deve ma perdere durante... tempo in bagno? E io invece certo, davanti a me un signore. Nel Medioevo era così, ma nel Medioevo c'era la gente che si affacciava alle finestre e cagava per strada. Ma va benissimo, ma fallo, metodo, fallo, ma... Devo dirti che non è male come metodo, però non si può fare oggi, perché comunque si poteva fare quando c'era poca gente intorno. Ma non c'erano si i può fare no, oggi. Non si può fare oggi. Può ti posso fare dire, oggi. A me il bagno in casa mi fa schifo. Vorrei un buco dove cagare, sì. una doccia, perché ogni tanto la doccia uno se la deve fare proprio ogni tanto, basta, un lavandino così. D'altra parte, come se abitavi in una casa tanti anni fa, questo l'ho raccontato, bidet, che più o meno bidet. Era così. Allora, davanti a me ho il signor Paolo Ruffini, che saluto, caro beh, Paolo. Siamo al top, siamo veramente al top, finalmente, gigante. Allora, prima di andare sul film di cui è diventato indegnamente regista and montatore, indegnamente. Beh, andiamo tutti sabato e domenica, andiamo tutti al cinema a vedere. Sì, bravo, non c'è bravo, bisogno, bravo, lo diciamo bravo, io bravo, certamente andrò per amicizia. No, io sono un fan di vacanze, devo dire, devo confessare. Questo si chiama Super Vacanze, esatto, però. Super Vacanze di Natale. Sì, lui è regista incredibile, adesso ci racconterà come è nata questa regista. Io ho verificato che il signor Lacorte è molto rock, molto Lloyd Webber, sai che non lo sapevi? Non me lo immaginavo, veramente è il top assoluto, ragazzi. Tu devi sapere che ormai io ricevo più messaggi sulla Corte che su me e su Parenzo. Ah, sì, cioè, ormai la classifica è messaggi sulla Corte, messaggi su Parenzo, messaggi su Cruciani. Cioè, io ormai sono diventato un umile orchestratore, un umile burattinaio, distributore. Tu sei il grande il Zubin Meta della Zanzara. Il Zubin Meta. Che tu, però, che quegli stronzi che telefonano, quegli stronzi, quelli che ascoltano lo sanno, quegli imbecilli subumani che chiamano ora si staranno lì ingarellando dicendo che cos'è Zubin Meta, che cos'è Zubin Meta, sarà un nazista, no non è un nazista, non è un nazista, andate a vedere chi è Zubin Meta. Ma non è che andate sei solo a tu a sapere, c'è un sacco di gente che lo sa, perché no, devi bistrattare quelli la gente che chiama? Quelli che chiamano, ma giustamente Giuseppe chi è Zubin Meta, un gerarca nazista, no è un grande. Vabbè, voglio subito chiedere però a Paolo quanto si lava lui, poi andiamo su Vacanze di Natale. Quanto ti lavi? Sei crucianiano ormai, io insieme a Mauro Corone e altri apparteniamo ormai ad una schiatta, ad una etnia abbastanza precisa, quelli che si lavano poco. Tu quanto ti lavi? Dimmi la verità. No, bidet tanti me ne faccio. Bidet che c'entra? No, no, ho capito, siccome la dissertazione molto spesso verteva anche sull'intimo, sì, vero, allora sì, io devo dire che quello mio difetto, non so che non fa molto bene le docce, no, me le fo te le fai, dire la verità. Ti lavi, però mi lavo, però questi ultimi due giorni di promozione estrema forse ho saltato. C'è ieri le mutande, quante volte no me le cambia anche se mi lavo, no quelle no, dai, ogni giorno, no beh sì certo, ma perché te lo so che ti calma, che ti piace il baffo, che te ti piace il baffo, lo so, mi piace abbastanza il baffo, sì. La frenata, cioè, di la soddisfazione, mi piace prendere quella mutanda lo so, quella mutanda la mattina, che ha quella portarla, sentire, si può resistere ancora un paio di giorni. Sì. La rimetti apposta. E ti devo dire la verità: quando vai per boschi, diciamo così, per boschi, per usare una metafora, non cambia niente. No, vero, nulla, anzi. Anzi, se una ti ama, ti capisce. Bravo, bravo Paolo. Bravo. Dunque, tu, abbiamo accertato che Paolo Ruffini non appartiene, purtroppo, io dico, alla schiatta dei crucianiani. Da questo punto di vista, si lava abbastanza, in modo abbastanza continuo. Sì, diciamo. Sì, esatto. Cioè, diffusamente. Diffusamente. Tu, per esempio, che ne so, tipo i calzini, ecco, un'altra cosa. I calzini purtroppo, sai cos'è? Ti devo dire, Davide, sai qual è il problema mio? Che non me li lavo la notte, perché io ho sempre freddo ai piedi. Molto e buono, quindi, questo. Con gli stessi calzini con cui stai durante il giorno, a volte non c'è gioia più grande, ragazzi. A volte mi fa 36 ore. Quello lo ammetto, non è totalmente parenziano, perché sennò non sarebbe conciato come è conciato esteticamente. Però il punto fondamentale è questo: il calzino 36 ore può resistere. Soprattutto la cosa fondamentale, che non ho mai detto, effettivamente a pensarci, è bella questa cosa qua, che tu con lo stesso calzino con cui sei girato con la strada, con le scarpe, cioè tu vai direttamente nel letto, bellissimo. Cosa ne pensi di queste dissertazioni, David? Di queste auguste d'estate? Io vi immagino d'estate, lo d'estate il calzino dove vedi, d'estate, vai a dormire con calzino, sei malato di mente, scusa. Cioè, poi... Vabbè, allora io voglio capire una cosa. Detto questo, poi andremo anche su altro. Però tu hai fatto il regista di questo film. Sì. Hai montato. Quanto ci hai messo a montare sta roba? Sembra una cazzata, no? Dice, monto quattro scene. Ma infatti mi fanno incazzare quelli che dicono, vado su YouTube e lo trovo il film. Ma è una storia, cioè, ma è un bravo. Guarda, io ho preso i vecchi film per fare un film nuovo. Capito? Cioè, io vedete, sono riuscito ad assemblare una storia sugli spezzoni dei vecchi film. Ci sono degli innesti. È una roba geniale. Ci sono delle... adesso non esagerare. No, davvero. Ci sono però non è mai successo al cinema. Cioè, degli inneschi che alcuni personaggi hanno in un film e poi rispondono a altri personaggi in un altro film. E tutto per creare un unicum che ha un inizio e una però fine vera e propria. Diciamo la verità: Boldi e De Sica sono incazzati come bestie. De Sica ti ha detto che non sei regista. Boldi ha fatto causa della, vuole fare causa della Laurentiis. Rimangono dei miti. Per te rimangono dei miti. Piglio anche gli schiaffi, non c'è problema. Anzi, sono sempre. Anzi, dillo, però, dovrebbero essere con te, mi dovrebbero ringraziare, lo puoi anche dire. Perché... allora, a me no, però De Laurentiis, secondo me, credo che abbia fatto una grande celebrazione. Ma ieri, se tu hai visto Colorado, io ho fatto promozione al film di Boldi e non al mio. Sì, vabbè, quello figure. Perché no, ma non è questione di me. Cioè, io sono assolutamente. Ma io lo so che tu sei così. Io continuo però quelli... a essere grande fan di loro, ci mancherebbe. Però dovrebbero ringraziare De Laurentiis, tu dici, perché ha fatto. No, ma torniamo all'idea. Cioè, come si fa a costruire è un metafilm questo qui. È un metafilm. Praticamente siamo partiti dall'idea che, insomma, gli ispezioni sono stati scelti proprio per costruire una storia, capito? Quindi ci sono degli arrivi dei personaggi che arrivano tutti a Cortina, ci saranno poi delle intrecci e poi c'è uno scioglimento finale, come si confanno in tutti i film. Senti, ma è una roba geniale. No, basta, davvero, senza ironia. Nessuno ci crede, no, ma lo dico davvero senza ironia. Questo lo dico senza De Laurentiis paga bene? No. Come no? Va. Io non lavoravo. Paga bene. Ma insomma, a me mi pagherà quanto mi deve pagare. A loro so che ai tempi pagava. Sì, però in poi generale dici non paga bene, cioè non è uno. Però ti dico, cioè, non è che uno, ma sai, lì sono tutti un pochino miti, cioè, che uno dici, si fa. Un po', c'ha braccino un po' corto, signor De Laurentiis. a volte sì. Posso dire di sì. Cioè, signor De Laurentiis. Ai tempi so che pagava molto bene. A me mi paga, a volte mi regala anche l'olio, la mozzarella di bufala. Sì, ma l'olio, c'è un olio vegano. Ma dammi 400.000 euro, non l'olio. L'olio. Io ho lavorato comunque, per risponderti, 8 mesi, 34 settimane. L'olio. Ho visto, sai, il programma sull'Avid, il programma per 1164. Ma si può parlare male del Napoli quando con De Laurentiis oppure sì, no? Gli importa, no, lui non gliene frega nulla di nulla. Cioè, è uno schiaccia sassi, li puoi dire qualsiasi cosa, lui va avanti, c'ha questo sorriso sornione, il sorriso arcaico, ti ricordi, Davide, quello delle copie romane. È un padrone, si sente il peso del padrone quando sì, però è il numero uno. Cinico, è il numero uno. Cioè, lui riesce a parlare, capito? Con Giovanni da Reggio Calabria o con Mauro da Mantova, come con Murdoch. Quello è il capolavoro. Però sarebbe bello fare il signor La Corte, potrebbe fare un bel assemblaggio tra, sai, Mauro da Mantova che risponde a Donato da Varese. Ma realmente costruire una trasmissione così, la super zanzara di Natale. Questa sarebbe il top assoluto. Devo dire che non è male. No, il top assoluto, chiedo con scusa. Cosmo da Milano, anche se qualche intervento arcano. aggiungo questa chicchina che invece il vero dialogo impossibile sarebbe quello tra Mauro da Manta, ad esempio, e Massimo Cacciari con degli spezzoni, capito? Quello sarebbe, però lui dice bisognerebbe fare super, come Super Zanzara di Natale con tutte le, i colloqui più pazzi tra, tra i protagonisti. Beh, comunque il film è una bomba, è che fa più ridere in assoluto, perché c'è una battuta ogni 15 secondi, cioè poi le scene epiche tutte. Marchetta così no, ma lo dicevo in effetti perché fa ridere ogni 15 secondi, ma cazzo, ma per forza, perché avete messo il meglio di tanti anni, dici poco, ma la difficoltà di costruire una storia è una paraculata, una meravigliosa paraculata, una meravigliosa paraculata straordinaria. Ma poi la libertà di questi film che hanno questo linguaggio potente, ora si può più di cazzo, no, diciamo adesso, diciamo, noi diciamo tutto quello che ci pare, per esempio, no, ma nei film no, ai tempi tutte le battute, parolacce, meravigliose. Ti faccio sentire i gay, anzi no, i gay che non esistono, qualche associazione gay si è incazzata col signor Checco Zalone per una cosa pronunciata ieri, l'altro ieri nel programma di cosa, l'altro ieri, sentiamo. Mirku un giorno di pioggia c'è Mirku che affoggia, si strugia con Licia per caso, e lei pavoneggia, si atteggia e sfoggia la sua proverbiale bellezza, ma Mirku non la caga di pezza e lei non capisce perché. Licia, Licia, Licia, guardaci la camicia, un ciuffo rosso e biondo e frocio fino in fondo. Cioè, si sono incazzati per la parola frocio, dicendo che è un gretto. In Super Vacanziale saranno almeno 25 volte questa parola. La parola frocio? Almeno 25. Beh, stupendo, vedi. Ma tu si può usare per te tranquillamente, senza problemi. Ma che problema? Cioè, ma non è che quando si ma usava questa usano parola tra di loro, lo usano tra di loro, si chiamano frocia, frocio. Poi non è che lo dice brutto frocio de merda, anche qua. Ma che infatti, ma lì è film fatto con bonomia, bellissimi. Ma che problema è? Senti, cioè, ma ti sei lasciato quella del bufalo? No, no, no, ci sto, ci sto. Ci stai? Sì, sì, sì, sì. E com'è che escono intanto le notizie? No, è uscita quest'estate, a un certo punto. Avete avuto un periodo di crisi? È scappata, sì, è scappata con uno, ma poi è tornata. Come è scappata con uno? È scappata con uno e Parenzo lo sapeva e non mi ha detto niente, peraltro. La signora del bufalo. Cioè, tu lo sapevi, Davide, io fra l'altro, ecco perché una volta sono andata a Roma, ho mandato un messaggino a Parenzo e non mi ha detto, no, ha fatto finta di niente. Era... Grande amante, tra l'altro, del pelo della vagina, insomma, del pelo, certo, così, anche tu immagino, no? Beh, evidente, mi devo adeguare. Cioè, insomma, secondo te, nella grande diatriba qui zanzariana ormai da diversi anni, tra il pelo e non pelo, tu sei per il pelo di tutta la vita. Insomma, lei proprio ha fatto il manifesto del pelo. Cioè, lei è proprio il bosco, già. C'è no, proprio ma lei, un bosco. Ma a volte insomma, qualche sfoltatina gli suggerisco di darla, però insomma. Perché li suggerisci? Perché devi fare questo errore? È un orrore questa cosa. Ma anche l'Amazzonia ogni tanto va un pochino sfoltita, insomma, no? Voglio dire, questo mi sembra evidente. Allora, Super Vacanze di Natale, continua la nostra Super Marchetta a Paolo Ruffini tra qualche istante dopo l'interruzione. Fermi. Ed è venerdì. Crucia fino alla notte. Non mi rompete. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Ce l'ho pelo! E comunque, viva il pelo! Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Quel nano malefico. Perché ride sull'anno malefico? Sto maledetto. L'ho chiesto io, il mio taglio preferito. Quel nano maledetto. È una delle più belle. È una delle telefonate più belle. Pensa quel nano maledetto. Ruffini. Allora siamo qui con Paolo Ruffini. che in realtà si diverte molto più alla Zanzara che a Super Vacanze di Natale. Dovresti invecciare, ecco. Capito? Giovanni a Reggio Calabria dice gremlin. Come c'è un gremlin? Magnifico. Facciamo un grande Super Parenzo di Natale. Facciamo un Super Parenzo di Natale. Un grande mashup celebrativo. C'è l'altro Parenzo. Quanto è figo. Ce l'hai, questo c'ha tutto. Siamo veramente al toppissimo. Ma prendilo come tuo regista personale. Prendila corto come tuo regista. Facciamo un super Zanzara di Natale una volta al film. Film solo sonoro. Solo sonoro, non ce va nessuno. Rutti, scorregge. Parenzo! Ecco l'altro, sì. Ragazzi miei, senti, volevo capire una cosa, ma tu della vicenda di Brizzi che ne pensi? No, no, senza essere seri, però non ci riesco a essere serio stasera. Vabbè, ne penso che, cioè, i processi, secondo me, ovviamente quello che hanno detto tutti, vanno fatti nei luoghi deputati a fare processi. Bravo, questo dico. E il fatto hanno fatto male a togliere il nome di Brizzi dal malissimo film. Malissimo, per me. Quella, secondo me, è una cavolata. Insomma, a questo punto dovresti levare tanti film di Pasolini, dovresti non leggere più Hemingway, dovresti firma Caravaggio. Cioè, Caravaggio fu è una damnatio memorie di cui non c'è bisogno, non so. Poi fra l'altro la gente sta andando fortunatamente a vedere quel film al di là del fatto che ci quello sia. Non gliene frega niente. È una cosa. Non credo che se tenevano il nome, non credo che cambiava la cosa. Cioè, io con Brizzi c'ho anche un rapporto d'amicizia. Adesso purtroppo ci non credi lo sento a quello che è uscito o no? Io ti dico che nella misura in cui si sapeva qualcosa o non si sapeva niente, cioè si sapeva che uno che ci provava, che era un po' con le donne, quello scusa, cioè da che pulpito sta, cioè scusa, no, certo, ma scusa, io non sto dicendo, ma non sto giudicando. Non ti pare, Davide, che arriva Giuseppe Cruciani che mi dice scusami, ma io non sto dicendo due che danno il cornuto all'asino, però bisogna un po' distinguere, non è che io come si sia letto, come si è sentito, invito la gente a casa a fare provine e dopo mi faccio una sega. Scusate, ovvio, abbi pazienza. Scusami, però che ne fatto così, ovvio, ha mai invitato qualcuno a fare i provini? Mai in vita mia. Ci hai mai provato con qualcuno in maniera esplicita? Ci ho provato in maniera, ma cioè, tantissime volte ci ho provato, ma non è che attacchi uno al muro. Però ti posso dire, bisogna distinguere anche le avanze da quelli che sono le violenze. Cioè, se questo ha commesso delle violenze o comunque ha messo in imbarazzo delle donne, giustamente, cioè, deve pagare. Le iene hanno fatto un buon lavoro oppure una porcheria? Questo è anche il punto. Guarda, secondo me hanno fatto un'indagine interessante, però non lo so, non so dov'è poi il confine, capito? Tu dici, Davide, hanno fatto male. Io ma ti hanno dico fatto una, no, male hanno fatto una soap opera trasformando un uomo, prima non dicendo il nome, e tutti sapevano chi era dell'ambiente, quindi mettendolo anche sulla graticola. Poi lo hanno massacrato, non c'è una denuncia in tribunale. No, il però caso tu che sei di un garantista, cioè dovrebbe, cioè uno sì, deve però, poter ragazzi, essere. Io sono garantista e dico che Brizzi difendono quelli del cinema, i giornalisti difendono i giornalisti. No, ma io non conosco Brizzi, non lo conosco, non ho mai visto purtroppo manco un giorno in vita mia, perché non so neanche che faccia. Senti, se lo invece, trovo per invece strada, Sargento so che, però lo difendo. Ah, Sargento, dimmi una cosa sulla Sargento, se prego. Meravigliosa. Come meravigliosa? La Sargento la trovo fumettistica, sembra Betty Boop incazzata nera. Con chi si è incazzata l'altro giorno? Cos'è che ha detto? A parte che ha detto oggi che vorrebbe togliere l'Italia, è una vergogna. Con Brignano, pure con Brignano, brutto Buzzicone, gli ha detto. Buzzicone, gli ha detto. Con tutti, però sai, lì è strano, perché lei, nella misura in cui viene comunque anche attaccata e molestata, è curioso che poi prenda un aereo, no? E frequenti poi, cioè, lo lì stesso. Era una frequentazione, credo, no? Cioè, sì. E dunque? E dunque sti cazzi, cioè, nel senso, sono cavoli suoi. Cioè, io ad esempio non so, a me non mi viene da, cioè, dire. Cioè, lei come figura della donna molestata, come icona delle donne molestate. Sì, certo. Scusi, viene da ridere. L'icona, qual è l'icona? Ecco, sì, è diventata il simbolo delle donne molestate. Viene da ridere. Ma perché ride? Ride perché la Sargento, accostata alla figura, all'icona delle donne molestate, gli viene da ridere. Sai com'è l'altra cosa che diceva la signora Naike? Ti diceva Parenzo, quella canzoncina bellissima. Ha cambiato discorso, sto stronzo. Ci vuole un jingle, scusa. Sei circonciso o no? Sì. Sei circonciso. Ah, questo lo devo dire, ragazzi. Sei circonciso. Ora mi fai dire delle cose. Sono parenziano. Certo. Ma come cazzo? Ma tu non sei manco ebreo, però, scusa. No, no, è ha origini ebraiche. Non è vero. Non è vero, non è vero. Sì, sì. È per questo che ha fatto il film con De Laurentiis, ha origini ebraiche. Ma non ho capito, perché che cazzo ti sei circonciso a fare? Scusa, sei impazzito? Perché ti sei circonciso? Ottimo Ruffini. Bravo. E allora, perché narriamo, elenchiamo i grandi valori di questo gesto straordinario, David. Sì, allora, prima di tutto la pulizia, no? Poi cos'è? Ma certo, anche dal punto di vista estetico, la meraviglia estetica, cioè, no? Poi esteticamente. Sì, poi sì, come si chiama quella problematica che viene la fimosi, no? Si chiama fimosi il problema. Sì, non c'è nessun problema. Ma di quando l'hai fatto? Scusa. Ma qualche anno fa. Ma così, per tuo gusto personale? Ma no, perché cioè, me l'hanno suggerito, io aderito così, di buon grado. Suggerito, così, a cazzo di cane. Ti dico, scusa, poi, perché caso, poi puoi anche tagliarti l'uccello. Ah beh sì, domani vado a tagliarmi l'uccello. Ma no, non si dice tagliare. Me l'hanno caldeggiato in maniera veramente... Un urologo, un tabaccaio, no. Sono andato da un esperto del settore. Un urologo, perché avevo un problema. Un urologo, avevo una piccola... Ma che problema avevi? Ma veramente, ha detto, guarda, se scopa meglio, vieni un po' più lentamente. Cioè, avevi un problema, anche tu, di la verità. Ma assolutamente no, ma detto, stai offendendo quelli che hanno questo ma problema. Ma stai scherzando, ma non è vero, ma è una cosa stupenda, perché alla fine mi ha risolto un piccolo problema che avevo, un piccolo, come dire, un piccolo danneggiamento. Però che... da questa cosa qua ne è nato, diciamo, una situazione estremamente piacevole, stai dicendo. Sì, ti posso dire che non è che ho avvertito tutte queste differenze. Senti, una volta sei andato a puttane? Vita tua. Ma non proprio. Questa è super vacanza di Natale. Sì, questo è stupendo. Ci ho accompagnato degli amici. Si facevano. Mai andato tu personalmente? No, direttamente però no. Questo però non sei parenziano. Però, non sei questo, parenziano. No, non sono parenziano. Sono come te. Cioè, non sono liberalizzato. No, mai. Ma che scherzi. Che vanno a non condannerei mai. No, Lorenzo, no, no, no. Piate questa e porta. No, la no, casa. No. Ma quelli che sfruttano il corpo della donna. No, no, no. Questo non sono. Questo secondo me, David. Però la cosa dei gay di prima. La cosa dei gay di prima. Poi ti libero. La cosa dei gay di prima è. Ogni tanto queste associazioni gay che rompono i coglioni non ti stanno un po' sulle palle? Cioè non è diventata questa roba qui che non si può pronunciare una parola froce eccetera, non è diventata occhio al film, amico mio, fanno danno al film. No, no, ma vai tranquillo, fanno danno a loro stessi. No, perché dico, i gay se vanno domani, a vedere il film. Se io domani parlo di questo microfono, l'associazione nazionale italiana microfonisti mi condannerà perché ho parlato male, perché ho detto qualcuno, ho fatto una battuta su un microfono. Il discorso è che non si possono più fare battute su niente, e secondo me sono, come dire, le associazioni che si danneggiano perché rischiano, capito, di ghettizzarsi quando non ma c'è nessun bisogno. Ma perché le associazioni devono trovare un motivo di esistere, e dunque se non dicessero queste cose non esisterebbero, questo è il punto. Vabbè, resta qui Nicola, provincia di Salerno. Ti sei mai fatto una canna in vita sua? Sì. No, quello non fumo. Non fumi? Cazzo. Nicola dalla provincia di Salerno. No, le droghe proprio. Ma io manco, per cui Nicola dimmi dai. Sono come te. Sì, no, io sono contrario nettamente. A che? Alla legalizzazione del reato con le droghe. E vabbè, è legittimo, per carità. Io ho detto che c'è un fior di magistrati che sono contrari alla legalizzazione delle droghe leggere. Cioè... Il gratterio. Sì, ma è legittimo. Io penso invece che sarebbe un grosso passo avanti per tutti. Cioè, ragazzi, chiamano qui, è pieno di persone che chiamano e dicono: io mi prendo 30 grammi, prendo 50 grammi, cioè per telefono, nelle piazze, tutto praticamente legalizzato senza che lo Stato guadagni un euro. E, ragazzi, io sono un po', da questo punto di vista, mi spiace dirlo, sono con Saviano. Nicola, allora? No, ma non è assolutamente così, cioè, voglio dire, cioè non è che ci guadagna lo Stato se si legalizza la droga. Anche se sì, no. Sì, anche in parte sì. No, non si guadagna. Vabbè, che vuoi dire, Nicola? Non ho capito, che vuoi dire? No, lo Stato aumenterebbe enormemente le spese della sanità. Perché? No, perché lui dice più... un enorme incremento di numero di ricoveri ospedalieri. Ma chi te l'ha detto? Non è che la gente si è legalizzata se droga di più. Ma che dici? È esattamente il contrario. Vabbè, bagna. No, sti cazzi, Roberto Dal Lucca, rotte coglioni. Bagna la Spezia. Ho sempre sognato di farlo. Bagna la Spezia. Che genio, che genio. Bagna la Spezia, vai. Vai, Vania, vai tu, Vania. Allora? Dimmi, Vania. Oh, Vania, allora, che fai? Salon Parenzo. Beh, c'è prima di tutto vorrei dire che sono veneziana e abito qui da tanti anni, però volevo dire una cosa, io ho 80 anni, allora? Sono una da pochi che può raccontare ancora la storia delle persecuzioni sui campi di sterminio. Adesso sti cazzi però, scusi, signora, anni, però lei capisce alle 20 che a quest'ora... 46, dopo che abbiamo parlato con Ruffini... Signora, lei si è parlato di topa finora, capisci? Amica mia, capisci? No, no, aspetti un attimo, gli faccio dire quello che vuole, però c'è una cosa che devo dire, mi ha detto nell'intervallo il signor Ruffini, cioè che quando è stato lasciato dalla signora del Bufalo... E la signora del Bufalo si è messa con un signore che fa il medico che chirurgo. Fa il chirurgo che si chiama chirurgo estetico che dottor fa? Finocchi il dottor signor Finocchi. Il signor Finocchi, come cazzo ha osato mettersi con il signor Finocchi? C'ha la fava più lunga della tua, no? Quello no, mi sembra. Ma difficile. Il signor Finocchi, dici? Non lo so. Questa... Non gli hai chiesto quando è tornato te. Insomma, sì, mi ha, stato, mi ha dato un feedback, ma insomma, lusinghiero. Ma io non posso parlare della fava del dottor Finocchi in radio, scusami. Francamente, no? Sentiamo Vania dalla Spezia, signora. Parliamo no, delle però persecuzioni. C'è un elemento, c'è un elemento. Voglio vedere se esiste sul davvero tradimento. Il dottor Finocchi, medico estetico, che era questo? No, io qui sono bruscianiano al mare. Il poliamore, poliamore sempre. Libertà, l'amore è libertà. Cioè tu secondo te hai insegnato alla signora De Bufalo che ma lui lo sai che è fidanzato della mia ex moglie? Lui è fidanzato della tua ex moglie? Sì, esatto, Riccardo, c'è cioè, un tuo amico Finocchi. Che no, ma è una famiglia, ma siete dei bella cosa, la famiglia pazzesca. Ma siete degli zozzoni. No, perché c'è un signore qua, di una delle persone mia. Che lavorano, ma lei è un troiaio alla famiglia. Lei è un troiaio. Ma che ambiente è? Allora io gli voglio dire una cosa. Che ambiente, cioè, hai capito? Ruffini stava con la Del Bufalo, aveva una moglie, la quale moglie adesso si è fidanzata col Finocchi che c'ha no, la fama. No, piccola. No, sbagliato, ma sbagliato. Ragazzi miei, no, la cosa siete è questa. Dei maiali. No, Ruffini stava con la Del Bufalo. La Del Bufalo per un sì. periodo sta con la Del Bufalo. Per un periodo però è stato lasciato, con si è messo Finocchi. Con un tale chirurgo estetico sì, che sì. tale no. Finocchi che pare avere il una fama Finocchi notevole. Ora sta con la no, ex moglie. Tu l'hai detto, ma non l'ho detto ma io. Praticamente ma tu l'ha detto, lei ha dato giudizi lusinghieri. Ma sono relazioni, insomma, no, su sarà contento. Scusi signor Finocchi, se l'abbiamo citata, la chiameremo lunedì, comunque non si preoccupi. Perfetto. Poi qui presente c'è un collaboratore del signor Ruffini sì. che non so se abbia Riccardo, lavorato dottor Bianciotti signor Bianciotti Riccardo facciamo proprio il cognome perché sì. va bene Bianciotti. Il quale si è messo con la moglie sì. sta con la moglie di Ruffini l'ex di moglie di Ruffini, o di Ruffini? No, di Ruffini. No, di me l'ex mia. Moglie di Ruffini. Beh, ma lei è una maialata no, veramente ma perché la maialata è sta straordinario qui, cioè sta qui e cioè, scusi è però a questo punto secondo te sì. la tua moglie trombava meglio con te o con signor Bianciotti? Su questo ti ha dato feedback anche a te che no è bugiardo guarda te l'ha detto anche a te te, ricordi, te l'ha detto anche a te ad una serata la mia moglie te l'ha confessato di alcune performance che ora non cioè? Posso beh insomma che è più contenta ora mi ha detto ma una cosa tremenda Davide ma tutti ti rendi conto Cornuto e Mazziato ma qui ci vuole Taormina Vania dalla Spezia ma... che ci parlava Vania, delle persecuzioni scusa, Vania, ma qui ci vuole Taormina ma che è un bel ambiente ma l'ambiente dei maiali Vania, Vania. Sì, pronto? Sì, la signora figura nonna, ma come dici, si cosa ci vuole scusi dire? Vania lei ha 80 anni da quant'è che non tromba scusi signora non tanto tempo fa guardi non tanto come? Tempo qui si apre uno scenario signora non ci si mette anche lei per carità ma è vero che quando si arriva a una certa età non si sente più niente guardi mi dispiace per voi no no perché ma io dico ma ancora soddisfazioni scusi quando arriverete a 80 anni me lo racconterete che va bene? Lei cara scusi, nonnina era la mia ancora di speranza l'ultima volta che un pisellino è entrato nella sua vagina adesso non entriamo in questi no dobbiamo entrare io lei ho telefonato per un'altra cosa ma chi se ne frega No, campi di sterminio che ci fregano. Beh, io insomma, sono innanzitutto mi scuso dico shalom a ma vabbè questo shalom ormai sì, shalom. Questa trasmissione volevo è piena di razzisti volevo si dice solo shalom. Dire una cosa mi scusi che un aneddoto di mia mamma che è stata una delle poche che è tornata dal campo di sterminio sì. che ha fatto Bergen-Belsen in Buchenwald e l'altro adesso volevo dire una cosa un aneddoto l'unica cosa che lei come diceva Frassica quando poteva si lavava con la neve. Ah, e dunque? Ecco. E dunque? Si lavava con questo dunque, è rivolto a me. Cruciani, se lei si lavasse sarebbe meglio. Brava, anche vai. Per rispetto verso se stesso e verso gli altri. Va bene, questo è questo. Grazie. E poi volevo dire un'altra cosa. Ma un attimo, però mi deve dire una cosa. Adesso faccia dire a me una cosa. Facciamo uno per uno. Così sì, lei dice sì, una cosa, un aneddoto, sì, come diceva Frassica, non mi ricordo. Sì, ma l'ha già detto questa signora. Lei purtroppo ha 80 anni. Si ripetono le cose. Dica. Però, Bani, allora, quando l'ultima volta che un Ma Bani, perché lei ascolta questa trasmissione per perché trombante l'ascolto sempre io non sono ma mica signora... napolitana brava ma allora, signora trombante. L'ultima volta che un pisellino è entrato nella sua vagina quando è stato tempo fa adesso tempo... cioè aveva superato i 70 lei non gli anni 70 non sto a precisare guardi. Gli anni l'età i 70 anni l'aveva superati già che no 80 appunto quando è l'ultima volta che ha trombato signora Vania qualche mese fa va bene qualche contento? Mese fa qualche mese fa e che tipo di rapporto che tipo guarda, di quando arriverete 80 anni me lo saprete ma che dire, tipo vabbè. Di rapporto è sessuale a 80 anni signora bellissimo bellissimo Ma perché non ha visto un film signora mia ma scusa perché? Ma scusami ma quanto è durato anche sarà perché io sono figlia di un'ebrea saremo molto calorosi noi ma adesso no? quello non c'entra brava signora scusi io voglio capire una cosa ma come sta brava, ma lui quanti brava. Anni aveva lui Qualche anno meno. Qualche lui anno sarà meno. Stato a Finocchi, il professor Finocchi, ovviamente. No, sarà stato. No, non sicuramente. Professore Finocchi, no, ma guarda, è un ambiente degradato. È famoso questa sera. Fermi tutti, però... dobbiamo chiudere. La richiamo Lorenzo. Viva, viva la libertà, viva Vania. Super vacanze di Natale. Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti. A domani, sì, no, cazzo, lunedì, ciao. I Doriani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.